Carlo Genta. Mi sa poi di cosa serve il Tito Maio 2, se big situation. Salutare Giovanni Capuano, che è tornato e che da domenica ritroveremo. Ci ritroveremo. Da domenica insieme. ricominciamo. Potevamo lasciarvi senza. Assolutamente. Comincia il campionato. Cominceremo anche noi dalle 5 alle 7. Tanto con grandissime novità. Vediamo. No, la grande novità è che la Juve non ha più punti di vantaggio. E questo, sì, diciamo, ci consentirà anche la domenica di avere qualcosa in più da raccontare. Perché partono tutti da zero. Partono tutti da zero, così risulta. Anche se in realtà domenica ci sarà già qualcuno più avanti. Pensa che bello, eh? Pensa se la Roma sarà già in fuga. L'ha vinto la Roma. L'ha vinto la Roma, è fatta. C'è già Garcia pronto. Tu sai che ti saluto con Why Always Me, Mario Balotelli, le scarpe nuove oggi presentate, gliel'hanno fatta brutta la Puma, che ha fatto le scarpe con la cresta, le userà per andare a fare shopping, stando così le cose. A meno che Luca Marchetti da Sky non abbia qualche altra idea. No, tanto buon pomeriggio. Ciao Luchino. Un'altra idea, non lo so, l'unica idea in Italia ce l'ha avuta Ferrero finora. Che è perseguibile fino a un certo punto, perché da quello che sappiamo noi in realtà a Mario non piacerebbe tornare in Italia, e quindi ha dato mandato affinché si scandagli bene prima il mercato inglese, perché non è un calcio che conta, non è un calcio che conta, quindi, ma secondo me è più anche per una questione di non bruciarsi ancora di più in Italia. Non so se lui vede l'Italia come un possibile ultimo ritorno e quindi cercare comunque di rimanere aggrappata alla premia. Questo non te lo, il motivo non te lo so dire sinceramente. Sì, però Luca, non fa niente Mario, anche questa cosa delle scarpe, diciamo la verità, dopo una stagione così, dopo un'estate in cui sei prigioniero di un mega contratto al Liverpool, per me te la puoi risparmiare, vai dallo sponsor e gli dici facciamo qualcosa di diverso, no? Cioè Mario deve decidere se vuol fare il giocatore di calcio o no. E questa non è una stagione banale quella che inizia, perché porta gli europei. Non lo fa più da tempo il giocatore di calcio. E questa forse è l'unica cosa che a me non torna di tutto il discorso di Luca Balotelli. In quest'estate abbiamo visto tanti attaccanti prendere in considerazione anche piazze che magari nella loro carriera non avrebbero mai pensato di poter neanche essere accostati sui giornali come nome, proprio in virtù dell'europeo. A Balotelli questo discorso finora non ha proprio toccato. Pensare che insomma, se dovesse andare alla Samp con Cassano, erano loro i titolari dell'ultimo europeo, che peraltro l'Italia perse in finale. Certo. Sì, e non era nel Medioevo, luglio 2012. Primo luglio 2012 la finale di Kiev. Posso dire una cosa su Balotelli? Sì. Balotelli ha appena compiuto 25 anni. Nel 2007, sai chi aveva appena compiuto 25 anni ad agosto? Chi? Un certo Antonio Cassano. Antonio Cassano, è così caro Mario, è così. Antonio Cassano, che nel 2007 accettò di andare alla Samp in prestito, il primo anno con stipendio in gran parte pagato dal Real, dal secondo anno di fatto dimezzandoselo, e si costruì una seconda parte di carriera comunque direi dignitosa. Ha fatto un mondiale, ha fatto un europeo da protagonista, ha vinto uno scudetto. Cioè o Balotelli si mette in testa che il treno che passa adesso è l'ultimo e può anche pensare di scendere di classe, ma si può costruire una seconda parte di carriera di un certo livello, oppure secondo me se perde questo li ha persi tutti. Secondo me non capisci di calcio. certo che Zenga, Balotelli, Cassano e Ferrero, ci vuole il domatore. Ci vuole grande quadrilatero, direi. No, ci divertiremo. Ci divertiamo già così, secondo me. Sì, hai ragione, una M in più non fa male in questi casi. Ascoltami, mi riassumi, io mi sono perso, i mille movimenti della Juventus e dell'Inter. Allora, la Juventus sta per prendere Alex Sandro, il terzino del Porto, pagandolo tanto, quasi a prezzo pieno, nonostante sia in scadenza, ma perché il Porto è così. E peraltro ha fatto anche uno sconto rispetto secondo il Porto, rispetto alla clausola da 50 milioni di euro che il giocatore aveva. Il giocatore ha detto al Porto: io non rinnovo con voi, sappiatelo. Poi ha accordato con il Porto il trasferimento alla Juventus, che lo avrebbe preso quest'anno a quella cifra che abbiamo detto, 22 più bonus, anziché andare a parametro zero al Manchester City, che gli aveva offerto 4 milioni all'anno. Al Juve viene da 2,5 netti più bonus. Quindi lui si è, diciamo, sacrificato per non mettere in difficoltà il club che di fatto lo ha cresciuto, se vogliamo leggerla romanticamente così. Sì. La Juventus ha approfittato del fatto che il Manchester City invece l'avrebbe preso soltanto a parametro zero. Sì, sono comunque tanti soldi. Sono sì, comunque tanti sì. soldi. La Juventus è convinta che sia un giocatore che può giocare nella Juve 10 anni. Sì, quindi l'investimento, l'investimento che fa e il ragionamento che ha fatto soprattutto sul discorso Siqueira è: vado a prendere un giocatore che penso possa essere un top, anziché magari prendere un ragazzo che è sicuramente bravo, ma più di questo già, cioè, ha dato già il massimo. La Juventus vorrebbe prendere tutti i giocatori, magari spendendo un pochino di più, però prendere dei giocatori che secondo loro sono possono essere più forti. Sì. Sì. E questo discorso viene fatto su Mkhitaryan adesso, per quanto ci risulta, noi piuttosto che su Draxler. Cioè, il prezzo di Draxler per la Juventus è i famosi 15 più 9, per Mkhitaryan ci si può spingere anche oltre. Il problema è che Mkhitaryan la Juventus lo segue da gennaio almeno, e a gennaio c'era Klopp e non giocava. Adesso gioca e ha segnato 6 gol nelle ultime 4 partite. Quindi magari il Borussia potrebbe non essere poi così contento di lasciarlo andare. Ci vogliono almeno 20 milioni di euro per chiudere questo tipo di operazione, almeno. Ma quest'anno con meno di 20 non ti presenti neanche in pizzeria, eh? Questo è vero, questo è vero. Però la Juve con 15 ha preso Mandzukic. Sì, ma Mandzukic ci aspettava fuori dalla pizzeria, Luca. No, Mandzukic ha questa storia meravigliosa, che è il primo attaccante dell'Atletico Madrid dal tempo delle guerre puniche, che viene venduto a meno di quello che l'Atletico Madrid ha speso per comprarlo. È per questo che ti dico che aspettava fuori dalla pizzeria. Pur essendo un buon giocatore, insieme a Balotelli, aspettava lì, sul muretto. Quindi la Juventus, questi due, e l'Inter, che guarda, l'Inter intanto bisogna fare una piena trattativa con tutti. Bisogna fare una considerazione che credo abbiate fatto anche voi: i soldi di Kovacic non andranno reinvestiti sul mercato, è come se l'Inter li avesse già spesi. L'Inter ha fatto un conto vendita, adesso ha venduto Kovacic e quindi recupera i soldi che ha già speso. Però può essere un po' più morbida su alcune situazioni. Intanto Perisic, che si può fare, ripeto, soltanto in prestito con obbligo di riscatto, magari il prezzo del prestito l'Inter lo alza in maniera tale che diventi una sorta di prima tranche di pagamento, così magari il Wolfsburg, che ha anch'esso delle necessità di bilancio, potrebbe acconsentire a questo tipo di formula qua. E l'obbligo l'Inter vorrebbe regalare la decima presenza da almeno un minuto di Perisic nel campionato, quindi non è in dubbio il riscatto del giocatore. Sì. Non escludiamo a priori che possa arrivare comunque Perotti, sempre con la stessa formula, prestito con obbligo, perché il Genoa, dopo il grande colpo secondo me Diego Capel, continua a cercare i turbe alla Roma. Il sogno è quello di portare i turbe in rosso-blu. La Roma sarebbe anche contenta, visto che Gasperini è un allenatore che con i giovani e con i giocatori bravi soprattutto riesce a tirare fuori il meglio. In questo momento i turbe preferisce giocarsi le sue carte a Roma, però se il Genoa sta cercando un altro esterno, significa che Perotti può andare via, indipendentemente da Perisic. E poi Mancini vuole assolutamente un centrocampista con grande personalità, e mi sembra che il nome di Melo ormai si è scritto sui muri della sede dell'Inter. E poi c'è il discorso del terzino sinistro. Almeno 4 i nomi sono, almeno quelli che sappiamo noi. Uno è Coentrao, che però costa moltissimo, perché da quello che sappiamo il Real ha chiesto 15 milioni di euro per il cartellino, lui guadagna 4, quindi è un'operazione che l'Inter, stando così, non la fa. Certo. L'altro è Siqueira, che ha un vantaggio rispetto agli altri, perché è nato nel settore giovanile dell'Inter, quindi sai, con il discorso delle rose, anche quelle europee, le liste, lascia un posto libero fondamentalmente. Un Crescito, che non ha giocato con lo Zenit per le nuove norme nella federazione russa che obbligano le squadre a far giocare 5 giocatori russi, e l'ultimo in ordine di tempo è Gulam, perché il Napoli ha contattato l'Inter nelle ultime ore, hanno parlato di Ranocchia e Kwan. È possibile, è probabile che un'ipotesi di lavoro possa essere uno scambio fra un centrale e il terzino sinistro del Napoli. Ma è vero che si vedono oggi Inter e Napoli? Guarda, il Napoli è a Milano, 100%. E l'Inter quindi è a Milano. Quindi noi aspettiamo. Se vogliono vedere, si vedono. Magari si sentono al telefono, perché magari risulta più comodo. Sì. Però il contatto c'è sicuramente. Ci sono dati appuntamento in questi giorni, adesso noi diciamo oggi, domani o dopodomani, per poter approfondire questo tipo di situazione qua. E noi aspettiamo fuori dalla pizzeria e vediamo se ci portano qualcosa. Sì, esatto. Poi magari becchi Berlusconi dopo la Coppa Italia che ti dice che porta Ibra a Milano. Eccolo qui, senti. Ibra è molto semplice, ha una permanenza difficile in Francia per una sua frase che tutti conoscono e che suscita su tutti i campi in cui va il Paris Saint-Germain delle reazioni del pubblico, e quindi può anche essere che il Paris Saint-Germain decida di chiudere con lui. Ove questo accadesse, abbiamo la sua parola che lui sarebbe soltanto disposto a venire al Milan. Aveva mangiato bene con Mihajlovic. Sì. Sembra una grandissima apertura su Mihajlovic, cioè, al di là delle nostre sensazioni che abbiamo sempre detto che Mihajlovic dovesse lasciare il Paris va al Milan. Qui gli ha detto, cioè Berlusconi ha detto, abbiamo la sua parola che se dovesse lasciare il Paris Saint-Germain viene da noi. L'ultima volta che al Milan ha detto qualcosa di simile era con Tevez, non ci tradirà, e Tevez è finito la Juventus, quindi non è garanzia, quella è una storia diversa. Io però, diciamo che c'è entrata Barbara Berlusconi, sì, qualcosina. Io però ho una curiosità, e ne parlavo anche prima in redazione, Luca, perché di questa cosa di Ibrahimovic al Milan sui giornali francesi, l'Equipe, Le Parisien, non c'è traccia? Ma non c'è traccia non oggi, non c'è traccia mai. In queste settimane, mai. Ma intanto, secondo me... Cioè, non è una cosa che ci stiamo raccontando da soli? Beh, può darsi pure, non sarebbe neanche la prima, guarda che ti dico. Detto questo, un po' secondo me lo odiano talmente tanto Ibra che meno ne parlano, meglio stanno in Francia. E poi va detta una cosa, questa seriamente, il presidente del Paris Saint-Germain, il proprietario del Paris Saint-Germain, l'allenatore del Paris Saint-Germain hanno sempre detto, finora non se ne va nessuno. E quindi siccome le parole comunque un peso lo devono avere, almeno in Francia, non calcano troppo la mano. In realtà certo. Poi adesso obiettivamente di Ibra qualcosa si è scritto, soprattutto in Svezia più che in Francia. Aspettiamo fuori dalla pizzeria. Ciao Luca, grazie! A voi, buon lavoro. Ci vediamo stasera. Ciao. Ti vediamo stasera su Sky. Ci fermiamo per la borsa. 800 24 00 24, numero verde, vi aspettiamo. C'è traffico. Basta, cioè faccia quello che vuole fuori. Chi se ne frega? Domani mattina, quando andiamo tutti a lavorare, cosa cambia di quello che fa Balotelli nella vita privata? Io penso nulla. Tutti convocati. Convocati. Siamo dichiarati tutti contenti dell'andamento della gara, della prova positiva fornita soprattutto dai nuovi atleti che hanno dato di sé con degli spunti personali molto buoni il senso della loro capacità, e quindi speriamo che il Milan, anzi contiamo che il Milan quest'anno, soprattutto anche per il nuovo allenatore, che è credo l'acquisto più importante che ha fatto il Milan, che possiamo fare un bel campionato e ritornare ai fasti del passato, classificandoci per la Coppa dei Campioni. E questo era Silvio Berlusconi che, come detto, ha mangiato bene ieri sera. Ha mangiato bene, ha visto anche secondo me una bella partita, sì. Fatta la tara che il Perugia non è il Real Madrid, però io devo dire la verità. Un tifoso del Milan ieri è andato via da San Siro con in testa esattamente quello che sarà il Bravo. Milan di questa stagione. Esatto, proprio quello che volevo chiedere a Novellino, sai? La prima domanda che volevo fare a Walter Novellino, che saluto. Ciao mister. Buongiorno, ciao. No, stavo dicendo giustamente Capuano. Ha ragione Giovanni Capuano. Sinisa sembra aver messo un po' di ordine, quantomeno un po' di ordine, in quel casino che era il Milan. Ah, io questo, se c'era casino non lo so, però Sinisa sì, ha portato, sono arrivati anche dei giocatori bravi, sono arrivati gli attaccanti che sono bravi, Bertolacci, sta facendo bene, sono arrivati dei buoni giocatori, come ha detto Berlusconi, è una buona squadra, ma il miglior acquisto è Sinisa, che ha dato qualcosa di suo, qualcosa di caratteriale sotto l'aspetto del carattere. Però onestamente ieri il Perugia non è che era impaurita ieri sera, non era il Perugia per esempio quello che ho visto nell'altra partita in Coppa o nell'amichevole col Carpi. Era impaurito, mi aspettavo qualcosa di più del Perugia, però al di là di questo credo che il Milan sarà uno dei protagonisti del prossimo campionato. Ieri questa scelta che ha fatto Mihajlovic, cioè fuori Montolivo dentro De Jong con i due mediani, con le due mezzale Bertolacci e Bonaventura, anche secondo me questa è una notizia che è bene segnarsi e tenersi da conto per il resto della stagione. Cioè, noi l'avevamo visto anche alla Samp, mister. Mihajlovic li fa giocare così, non ha bisogno del regista basso, ha bisogno più di gamba, di corsa, di inserimenti. Ma io credo che Montolivo non sia un regista basso, Non è uno che può fare anche l'interno, che può inserirsi, perché non dimentichiamo che la miglior parte dei campionati che ha fatto Montolivo è stata da interno, non da mediano davanti alla difesa tipo De Jong. Però ha dato un segnale importante per lui, perché bisogna correre, insomma, ma però bisogna anche dire che Montolivo viene da un anno un po' particolare, da infortuni eccetera eccetera, ma sono convinto che Montolivo è un giocatore che ha grande qualità. Ma secondo te ha spazio nel Milan di Mihajlovic o no? Sì, col tempo sicuramente. In questo momento forse gli altri due, Bonaventura e lo stesso Bortolacci, hanno qualcosa in più sotto l'aspetto della corsa e sotto l'aspetto fisico. Montolivo sta pagando qualcosa rispetto a loro, ma sono sicuro che Montolivo è un giocatore che ha grande qualità, Sì, potrebbe arrivare anche Soriano, che è un altro giocatore che il Milan servirebbe sì, perché quel centrocampo era terribilmente povero. Anche se io rimango dell'idea che il Milan qualcosa dietro deve prendere, insomma. Ho visto benissimo De Ciglio ieri sera, sì, è tornato quello che conoscevamo, insomma. Sì. Era ora un gran giocatore. Senti, invece l'Inter, rivoluzione continua, colpi in uscita, certamente quello di Kovacic, perché 35 milioni sono qualcosa di enorme per un giocatore che non si è mai espresso fino in fondo, diciamoci la verità. Però Mancini invece, a differenza di Mihajlovic, sembra non aver ancora trovato la strada e sembra, almeno lo dice lui, non aver ancora trovato tutti i suoi giocatori, perché ne chiede degli altri. Ma secondo me lui ha... credo che lui sta pagando un attimino tanti cambi che fa, insomma. È un allenatore esperto come lui, e d'altronde ha vinto anche lui diversi campionati. Deve dare un'indicazione di una formazione. Finora no, io onestamente non l'ho vista, anche se l'Inter ha grandi campioni, tra virgolette grandi campioni, perché Kovacic è un giocatore che a me piace molto, come hai detto tu. Non è che lui abbia fatto vedere, però è un giovane e sono convinto che alla fine questi 35 milioni di euro servirà per non so che cosa, onestamente, che non so ancora, non riesco ben a definire la squadra di Mancini, perché non so cosa voglia lui, o il 4-3-3 o 4-3-1-2, onestamente non è chiaro, non è chiaro. Lui deve essere chiaro. La domanda è se ce l'ha chiara in testa Mancini. Ecco, lui deve essere chiaro. Qualche dubbio, seguendo quest'estate, per carità, i risultati contano, quello che contano, però qualche dubbio è venuto, ad esempio, sull'idea che lui per un mese abbia fatto giocare Kovacic nella posizione di regista, e chiedeva intanto Felipe Melo. L'Inter ha trattato Mario Suarez, cioè giocatori completamente. Sì, ma lo prenderanno, mister, lo prenderanno, perché in realtà continua a chiederlo. Tra l'altro io volevo chiedere prima a Luca Marchetti, cioè serve un giocatore di personalità, adesso questo è il mantra di Mancini, chiedere a Medel se non ha personalità. Medel è stato il trascinatore del Cile nella vittoria della Coppa America, ma stiamo scherzando? Ma lo terrà sicuramente, io onestamente non so, io credo che, ecco, Mancini è un allenatore che ha vinto, ma molto fortunato, direi. Però al di là di questo io credo che non mi permetto io di criticare i miei colleghi, assolutamente. Però anch'io mi faccio sta domanda, perché io sono interista, anche se ho giocato nel Milan, sono interista. Devo dire che è lui che tipo di gioco ha, perché una volta fa il 3-5-2, una volta fa il 4-3-3, una volta fa il 4... 3-1-2 una volta, insomma anche i giocatori stessi, anche se hanno grandi qualità e hanno anche, sono gente di mestiere che hanno personalità, tutto, a un certo punto si domanda, fai fatica a capire come giochiamo? mister, dimmi un'ultima cosa invece, un altro tuo vecchio amore, la Sampdoria, ne abbiamo parlato grande. Prima suggestione. Io vedo che, senza dire niente a Zenga, tutti fanno il nome, ma ci sono anch'io come allenatore. Ho vinto anch'io nella storia. Sì, lo sappiamo bene. E tu, la Cassano Balotelli, li prenderesti insieme o no? Ecco, io no. Cassano sì, e Balotelli non lo so, io credo che davanti la Sampdoria sta bene, insomma. Cassano ha qualità, l'unico problema suo è il carattere, è un giocatore che anche Balotelli per me è fortissimo, però insieme non lo so, insieme o spaccano il mondo tra virgolette, fanno tante cose, e secondo me sarebbe da prenderli, perché hanno anche loro delle rivincite da prendere, insomma. Se non credo che sono dei giocatori, per me il miglior centravanti che abbiamo è ancora Balotelli in Italia o all'estero per la nazionale italiana, perché credo è soltanto a livello caratteriale che hanno questi due giocatori, perché hanno qualità e hanno tutto. La Sampdoria per esempio è una città, è una società che sicuramente li fa crescere sotto questo aspetto, anche i tifosi, però dipende molto da loro. Certo, grazie mister. Buona giornata a tutti. Ciao Walter Novellino, grazie davvero, ciao, come sempre. Ciao. Allora, che a proposito di Inter, cioè il giallo Inter. Che noi giriamo a tutti gli ascoltatori oggi. Ma perché vogliono Felipe Melo? No, giallo è diverso. Questo, no, per me perché questo è un i tifosi giallo. Non lo vogliono, quindi è molto semplice soluzione. Qui, certo, oggi alle 12:10. Comandano i tifosi, sì, no, però in questo caso diciamo. Alle 12:10 Andrea Ranocchia ha twittato la seguente frase: alla fine andrà tutto bene, e se non andrà bene non sarà la fine. Buona giornata a tutti voi. Allora, se c'è qualcuno in grado di farci l'analisi del significato di questo tweet, noi saremmo assolutamente grati, così come dopo avremo chi ci fa l'analisi logica di me cago en tu puta madre, che è l'altra frase che oggi del giorno. Ci sta occupando in redazione in riunioni, sì, fiume, però questa di Ranocchia, alla fine andrà tutto bene, e se non andrà bene non sarà la fine. Se qualcuno ce la spiega, sì, e se qualcuno riesce a spiegarcela, mi spieghi anche quella di ieri di Balotelli, del re che qualche volta lascia il trono. Te lo ricordi? Hai capito te? No. Allora, se c'è qualcuno tra i professori dei 140 caratteri che ci sa spiegare che cavolo vogliono dire questi qui, noi siamo qui pronti a capirlo. Massimiliano, provincia di Monza. Eccoci qua, vi saluto, tanti complimenti per tutto. Grazie. E forse dovrebbero twittare un po' meno, forse un po' tutti, pensare forse a giocare un po' di più e twittare un po' meno. Sì. Parlare, qual è il problema? Il problema è che questi qua non parlano mai. Sembra che siamo in una società di forse di comunicare più che parlare, quindi sì, Twitter piuttosto che, non lo so. Sembra che ci si nasconda dietro questi schermi di telefonini piuttosto che PC, e non si abbia davvero le palle, tra virgolette, per affrontare argomenti piuttosto che situazioni. Prima considerazione che volevo fare è sull'Inter. Sì. Vedo tanta confusione. E non vorrei che tutta questa confusione, io premetto, sono tifoso granata di origine e milanista per adozione, perché mi sono trasferito in provincia di Milano, quindi... nell'Inter non vorrei che tutta questa confusione sia data dal fatto che comunque c'è un Toir e un Moratti ancora in società. Non credo. Non lo so, però anche l'anno scorso nel Milan, finché c'è stata la Lady D che ha messo, voleva mettere tra virgolette becco, vedevo tra i giocatori tanta confusione, sembrava quasi che ci fossero le due correnti, e vedo nell'Inter la stessa confusione che c'erano anni fa prima di Mourinho. Con un distinguo: Mancini non è il debuttante Filippo Inzaghi, è uno che è un parecchia personalità in più, almeno in, per il momento, parecchie esperienze in più, diciamo così. Io non credo. No, ma poi con un distinguo, secondo me, che non c'è confusione di ruoli oggi all'Inter. Cioè, oggi all'Inter la parte tecnica praticamente Mancini, completamente in mano a Mancini, che fa e disfa, e la società fa di tutto per accontentarlo entro parametri che deve rispettare. Però Mancini si sta assumendo completamente le responsabilità delle scelte, a partire ad esempio quella del mercato invernale completamente sconfessato 5 mesi dopo. Quindi c'è un'estrema chiarezza. Il problema è che dopo mezza stagione in cui comunque gli è stato perdonato un risultato non buono sul campo, adesso da domenica sera Inter-Atalanta gli sarà chiesto conto, e credo anche in maniera fisiologica, di quello che succede, perché l'Inter, come tante altre, non ha più la possibilità di sbagliare. Non può permettersi di partire male, hai ragione. 800 24 00 24, numero verde, siamo qui in diretta. E sì, Max, abbiamo dei problemoni. Che problemoni avete? Capire il Twitter di Ranocchia, vabbè, sì. Stanno arrivando delle problemoni, spiegazioni via Twitter. E quindi poi state con noi. E poi com'era l'altra frase? Me cago in tu puta madre. Ecco, poi vi spieghiamo anche questo. Non andate su Google, però. Non andate su Google e magari mandate i bambini a mangiare dei biscotti. A dopo. Milena quando? 70%, 80%? Non sono bravo in matematica. Seguiteci su Twitter, @tutticonvocati. Tutti convocati. Crediamo di essere solamente all'inizio del nostro percorso, che è cominciato l'anno scorso. Credo che in questi giorni, l'anno scorso più o meno in questa data, eravamo qui a parlare di Lazio-Bassano, e credo che di strada ne abbiamo percorsa, se invece siamo qui a parlare di preliminari di Champions. Possiamo dire la nostra, anche perché è vero che siamo tanti debuttanti in questa competizione, però è anche vero che molti di noi comunque hanno esperienza internazionale con le varie nazionali, quindi non è la prima volta che si affaccia a un campo internazionale, quindi per noi è importante, sarà bello, però penso che siamo pronti per affrontarlo e nel migliore dei modi, quindi dare tutto noi stessi e dimostrare che possiamo competere contro una squadra importante come il Bayer Leverkusen. Facciamo tutti il tifo per la Lazio naturalmente stasera, no, in questo caso non mi sembra il caso di gufismi, salvo i romanisti che hanno pieno diritto. Guarda, sono autorizzati a gufare i romanisti e gli juventini, che volendo, dal solito discorso, dall'eliminazione nel preliminare della Lazio, lucrerebbero più soldi, dal market pool, dai. Però io dico che se da un punto di vista strettamente del ranking UEFA, so che ti annoia, ma la Lazio in Europa League sarebbe un mezzo affare per il calcio italiano, così come l'anno scorso lo è stato il Napoli. Io devo dirti che l'idea, per la quinta volta in 7 anni, di presentarci con solo due squadre o comunque con una squadra in meno alla Champions League, onestamente non sarebbe un bel biglietto da visita, e quindi questa sera possiamo tutti compatti tifare la Lazio e sperare, insomma, che salti questo ostacolo, che è complesso, ma non gli è andata poi malissimo. Poteva anche andare in peggio. A me preoccupa di più la Lazio, Giovanni, perché è vero che l'anno scorso giocavano col Bassano di questi tempi, come ha detto Pioli, però mi sembra che il livello del precampionato della Lazio sia stato quello. Sì, credo che peggio di quello dell'Inter ci sia stato solo quello della Lazio, per risultati e per difficoltà a trovare un filo logico. Però è anche vero che questi preliminari sono condizionanti. Nell'estate, ad esempio, la Lazio quasi non ha fatto mercato, ha preso Milinkovic-Savic, però insomma si è mossa poco. Qualche giocatore giovane interessante. Tutti stanno aspettando queste due partite, c'è poco da fare, c'è chi si è bruciato con questa tattica, ad esempio il Napoli un anno fa, sì. C'è chi poi invece dopo ha avuto ragione, e adesso siamo arrivati insomma al momento. Momento di cosa? C'è qualcosa da sentire? No? Sì, c'è qualcosa da sentire. Com'era quella frase? La frase di Ranocchia era... No, a parte quella di Ranocchia, quell'altra. Me cago en tu puta madre. Ciao Filippo Maria Ricci dalla Spagna. Bel saluto, grazie. Come stai? Dopo le vacanze non poteva esserci modo migliore per ritrovarti, eh? Veramente, veramente, un'accoglienza trionfale, sì. D'altra parte, ambasciatore non porta pena. No, certo, cioè, vediamo cosa porta il referto. Vediamo cosa porta il referto, perché vabbè. Mettiamo l'ascoltatore a suo agio e la frase che ha pronunciato perché secondo l'arbitro al guardaline al 55esimo di questo Barcellona Athletic Bilbao, ritorno della Supercoppa finita andata 4-0 dell'andata per Athletic Bilbao, il Barcellona ha pareggiato 1-1, l'Atletico Bilbao ha alzato la coppa. Sì, ma cosa vuol dire questa frase? Lasciamola libera. Esatto, no, ma la cosa bella è che quasi intraducibile, noi non insultiamo, perché modo di insultare. È vero, è questo il tema. Io ho detto non andate su Google perché vi perdete. No, a me scrivono maledico quella brava signora che non è proprio così della tua mamma. Però appunto non c'è un insulto, non è, cioè, sì, non c'è il classico puta, no, che appare lì, allora dici no, è un'espressione tipicamente spagnola, loro lo usano quel verbo lì, lo usano spesso, lo declinano in vari modi, con vari aggettivi, sempre per lamentarsi o appunto per imprecare, però non c'è, in italiano non abbiamo è intraducibile. Morale, al di là delle questioni lessicali, quante gliene danno? 4, 5, 6, 4 a 12. Da 4 a 12, adesso bisogna vedere, attenzione, da scontare ovviamente in campionato, per cui insomma la cosa è seria. E vediamo, adesso aspettiamo il responso, la decisione, poi ci sarà sicuramente un appello. Sì, perché hanno dato un giro di vite a questi insulti, secondo me, vuol dire il rosso diretto sicuramente è esagerato, insomma non è, però se le regole, le nuove direttive sono quelle di stroncare la parola violenta più che il gioco violento, va così. Piqué ha fatto una stupidata, insomma, erano un po' che ci giravano intorno, erano molto nervosi, insomma Stadia sta remontata lì, gli aveva un po'. Poi è partita male, ha preso la traversa Piqué dopo 6 minuti, è chiaro, magari se segni dopo 6 minuti magari cambiano anche le cose. Erano arrivati al 55, 1-0, niente. Sì, l'hanno data su e hanno perso un po' la testa anche loro, anche i marziani. Senti, dopo le vacanze ti becchi un sacco di roba carina, e anche Kovacic che passa dalla panca dell'Inter, o dall'essere quasi titolare all'Inter, alla panca, credo, del Real Madrid. Sì, qua mi sembra due la soldi, dura. Per due soldi, è così, qua si comprano panchinari per 35-40 milioni e va bene così, insomma, così va il football moderno, no? Funziona così. Kovacic, non lo so, insomma, io l'ho scritto l'altro giorno, prima che riesca a vedere un posto elettorale, o c'è un'ecatombe o deve fare delle cose che a Valdebebas non hanno mai visto, perché la vedo complicata, e poi soprattutto non serve a Real Madrid, perché in quella posizione sono già intasati, cioè dovevano comprare un centrocampista difensivo che gli manca dai tempi di Xabi Alonso, ed è tra l'altro più vicino al modo di pensare di Benitez, e invece hanno comprato un'altra mezza punta, che poi se la vogliono riadattare al centrocampista difensivo mi sembra uno sforzo inutile, cioè già l'hanno fatto con Modric, l'hanno fatto con Kroos, adesso perché devono farlo con Kovacic? Ma è un capriccio di Benitez? Ma non lo so, perché non lo vedo nemmeno come uomo. Cioè, non l'ha capito nessuno, perché Real Madrid aveva preso Kovacic, ma 35 e via. Nemmeno qui l'hanno capito, perché appunto, cioè, non si può dire che è un capriccio di Benitez, perché comunque lì c'è già James e Isco, insomma, no? Perché devono non lo so, sinceramente, e siccome nessuno di questi due è in vendita e non vedo come possano andare via, non, un capriccio di Benitez potrebbe essere un mastino che, diciamo, da mettere davanti alla difesa, quello sì potrebbe essere una richiesta, non so se magari lui ha chiesto questo, gli hanno detto di no, dice vabbè allora prendetemene un altro, e gli hanno portato Kovacic. Non risponde a nessuna logica, ma anche qui non è stato interpretato, non è la prima volta comunque, non è neanche la prima volta, e probabilmente, guarda, ti assicuro, non sarà neanche l'ultima. No, vediamo come va a finire. Io ho dei grossi dubbi sulla tenuta psicologica della relazione Benitez, del triangolo magico Benitez spogliatoio Florentino. Voglio proprio vederli, perché sai, cioè, Florentino ha fatto questa stupidata in andar via Ancelotti, non lo troverà mai uno che sa gestire le situazioni sempre col sorriso, anche di fronte a, diciamo, a degli ordini di scuderia molto discutibili. Benitez non è così. Benitez è uno che, se le cose non vanno bene, lo dice al minuto uno. Sì, sì. E adesso vediamo, perché adesso, attenzione, Gareth Bale vuole fare il numero 10, Sì, ha un po' troppe pretese, ragazzo. Prima voleva fare l'attaccante che non torna mai, adesso vuole fare il numero 10. Il numero 10, sì, che poi non è proprio il suo gioco, non è con quei gamboni, non è certo un personaggio da tiki-taka, da mettersi lì a giocare di spalle alla porta, a fare la sponda. Questo è il suo desiderio. Florentino ha detto sì, adesso vediamo. Insomma, sono molto curioso di vedere questo Real Madrid. Tra l'altro, stasera c'è il Trofeo Bernabeu col Galatasaray. Real Madrid nelle ultime tre o quattro amichevoli non ha fatto un gol, cioè non ha tipo fatto gol al Vallerenga, tipo l'Inter. Sì, però sai, sulla falsa riga, sono anche diverse, sì, sono anche un po' diverse. Insomma. Sì, sicuro. Senti, magari ti becchi anche, leggo da qualche parte, Balotelli a Siviglia? Ma mi sembra impossibile, conoscendo il Siviglia, conoscendo Monchi, mi sembra impossibile. Però mi dispiace, io sono, l'altro giorno ci pensavo, è veramente, che spreco per noi, come Italia, così è un vero peccato questa storia di Balotelli. Sinceramente io la vedo come, visto che non è che proprio ci avanzano i talenti, è un vero peccato che probabilmente il miglior giocatore che abbiamo sia in queste condizioni. Tra l'altro dobbiamo farci carico di questo problema. Io torno a ripetere, siamo nell'anno dell'Europeo e tra le righe, sì, Conte due mesi fa, prima di andare in vacanza, aveva detto le porte sono aperte per tutti, anche per Balotelli. Forse è passato sotto silenzio. Quando c'è stato il compleanno di Balotelli, parliamo di una decina di giorni fa, l'account Twitter ufficiale della nazionale gli ha fatto gli auguri, la città, cioè sono tutte cose che, se tu le leggi in filigrana, significa cercare di tenere aperta una porta, perché non lo fanno per tutti. Però poi, se dall'altra parte non c'è la volontà di fare un passo indietro, rinunciare a qualcosa per mettersi in gioco, e ci si resta legati ai super bonus, a questo stipendio, è Balotelli che sta scegliendo di smettere di fare il calciatore. Certo. Sì, certo. Sì, sì, è così. Però, ma io dico, va anche bene prendersi il super bonus, ma prova a giocare nel Liverpool, va benissimo. Cioè, ma magari fosse titolare nel Liverpool, non c'è bisogno di andare da un'altra parte. Che Mario, non lo so, insomma, sta male, secondo me sta male, voglio dire, perché non va bene, è un calciatore, fino a che non decide di smettere, cioè, fa come George Best, ha finito a 25 anni, va bene, però a parte che George aveva fatto qualcosina in più, sì, qualcosina, di Mario, però, qualcosina. Esatto, però così, anche sulle donne secondo me andava meglio, però a parte gli scherzi, io lo vedo, a me dispiace sinceramente da italiano, è un... No, ma anche a me lo dico spesso e mi accusano, ma tu ce l'hai con questo qui. No, non ce l'ho con questo qui. Io vedo un giocatore di immenso talento che lo sta buttando nel cesso, e questo spiace. Grazie, sì. Phil. A presto, voi, un abbraccio, ciao, divertiti laggiù. Allora, grazie. Allora, ci fermiamo per il traffico, subito dopo c'è Franco da Salerno. 800 24 00 24 è il numero verde. Visto gli acquisti di Cristiano Ronaldo e Benzema? Te li dico, sì, dopo. No, uno l'ho visto, l'altro lo immagino. Va bene, ve li dico dopo. La final si è acabato nel momento che ha avuto l'espulsione, e l'Atletico l'ha visto molto bene, ha vantato molto bene le nostre investite, le nostre possibilità di gioco interior, di gioco exterior. Credo che si è visto una gran finale, hasta che, bueno, hanno espulso a Girard e si è acabato. Tutti convocati. Convocati. Mentre, se volete, potete comprare le scarpe nuove di Balotelli con la cresta dietro per andare a fare shopping in via Monte Napoleone. Cristiano Ronaldo, che non ha le scarpe strane, ovviamente quelle dello sponsor personalizzate, ma senza creste o altre cose, si è preso una casa da 16,6 milioni nelle Trump Tower di New York, arredata credo da sua nonna, eh. Sì. Andate a vedervi le foto di un kitsch arredata dalla nonna di Cristiano Ronaldo. Sì, no, da nonna portoghese integralista di Cristiano Ronaldo. Però per quei soldi avrei preferito la vista, non male, la vista non male, ho visto la vista, sala da pranzo, quel finestrone lì, alla sala da pranzo con questo angolo di vetro su tutti i grattacieli. Vabbè, comunque, però la notizia importante è che, siccome tu sei nella migliore tradizione del calcio mercato, per cui ti chiama l'amico che ha un amico che fa l'agente, sì, immobiliare, che ti dice che quel giocatore ha comprato casa e quindi certamente si trasferirà, quindi la notizia è che da qui a qualche mese Cristiano Ronaldo andrà a giocare a New York. Andrà a giocare a New York? Eh sì, da qui a qualche anno probabilmente, sai. Benzema invece gli avanzavano $250,000. Che cosa faccio con questi 250,000? Vede un pallone tempestato di diamanti colorati e dice: ma sì, prendiamoci questo. Visto che non posso comprare la casa a New York, mi prendo il pallone con i diamanti. E visto che non può vincere il pallone d'oro, si prende quello con i diamanti. Si prende quello con i diamanti. Franco da Salerno. Salve, buongiorno. Teresa, anche a lei? Teresa, pallone buongiorno, d'oro. Teresa, grazie per avermi convocato. Grazie a lei. Io Teresa, sono, pallone sono... tempestato di diamanti? No, sì, no. Mi interessa. Teresa. Cioè, dovevo la domanda a vostro esperto. Lo diamo a 2,60, tranquillo. 2,60 arriva. Allora, io sono interista, ho 50 anni e mi ricordo pure la formazione dell'Inter di Bessellini che vinse il campionato. Allora, la domanda mia è questa. L'esperto ha parlato di Inter, che non c'è, io dico che c'è confusione, anche, non so, di ruoli o di competenze. Lui parlava invece che i ruoli sono ben definiti e parlava di responsabilità. Mancini la sua competenza tecnica e si prende le sue responsabilità, anche se sbaglia. Vedi la campagna acquisti invernale, dove forse rimarrà solo Brozovic, il resto saranno tutti ceduti. Ne volevo chiedere, ma che significa si prende la responsabilità a Mancini? Che paga di tasca sua? Mi sembra proprio di no, mi sembra proprio di no. Oppure quest'anno già ha detto che per vedere l'Inter bisogna aspettare dopo 4-5 giornate di campionato. Non lo so. Beh, però amico, 4-5 giornate sono tante, No, sono troppe. L'ha detto lui, l'ha detto lui. Lo so, ma sono troppe, può dire quello che vuole. Lui ha detto Mancini, per vedere l'Inter che lui c'ha in mente bisogna attendere 4-5 giornate. Tra l'altro è l'aspetto più inquietante di dichiarazione di Mancini, perché le prime 5 giornate, a parte il derby la terza, l'Inter ha un calendario morbidissimo: Atalanta, Carpi, Chievo e Verona. Quindi sono giornate in cui l'Inter non dovrebbe fare esperimenti ma fare punti, che vorrebbe dire crescere anche in autostima. Sul tema che l'allenatore non paga di tasca sua, non è che Mancini è l'ultimo, è l'unico, è ovvio. Il significato è che Mancini non ha un uomo di campo in società che gli impone le scelte, come magari può essere. Guardate la Juventus cosa sta succedendo con Allegri, che da gennaio chiede un trequartista, il trequartista ancora non è arrivato, e Marotta dice ma magari ci serve un centrocampista diverso. Questa cosa all'Inter non succede, e quindi Mancini è responsabile e si assume la responsabilità di quello che fa fare oggi sul mercato ad Ausilio, a Toir, alla società, gli investimenti giusti o sbagliati. Se c'è un passo che a me non è piaciuto l'altra sera di Mancini è quando, dopo per tutta l'estate aver emarginato Shaqiri e aver fatto capire che su Kovacic anche il regista non credeva, lui ha detto: ah, io li avrei tenuti tutta colpa, sì, del fair play finanziario. Sì, sì, secondo me gli è cresciuto il naso e non sappiamo ancora dove è andato a finire. Certamente non si muove giocatore che Mancini non voglia. Poi possiamo provare a capire altre cose. No, la cessione la doveva anche fare, ma se Mancini su una scelta come Kovacic avesse detto no, io su lui faccio la squadra, esatto, ne vendevano un altro. Ne vendevano magari altri due. Continuo a non capire perché Santon sia sul mercato, visto che cerca un terzino. Ma vabbè. Mario Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, vorrei fare gli auguri in diretta a Gianni Rivera, si fa? Sì, come no, certo. Oggi è il suo compleanno, compie 72 anni, sono milanista da sempre e vi seguo sempre, sai. Poi sarà parlato di Mario Balotelli. Mario Balotelli ha bisogno di un papà. Chi può fare papà Balotelli? Il presidente della Sampdoria. No, non credo, no, poteva farlo il suo papà, che purtroppo è scomparso qualche mese fa. Ha bisogno ha bisogno, ma 25, sì, ma 25 anni ha bisogno anche di risolvere. Poi c'ha la testa, però è nulla ancora. Ha bisogno di risolvere qualche suo problema anche da solo, però magari di cominciare a diventare grande. La verità è che il calcio si sta rovinando per questioni di soldi. Beh, se non ci stanno i soldi, quando io giocavo a pallone 30-40 anni fa, io ho giocato con la Sarasanese, il nostro compenso qual era? L'imposto spese, ogni gol 5.000 lire e ogni punto 15.000 lire. Lo so, ma adesso lo so. Adesso dai due calci a pallone, danno i milioni. Va bene a loro, va bene a loro, signori. Che le devo dire, Mario? Tanto indietro non si torna, quindi andiamo così. Grazie, fai, auguri a Rivera? Auguri a Rivera, certamente. Auguri a Rivera. Auguri a Rivera, of course. Grazie per avercelo ricordato. Fabio, provincia di Venezia. Sì, pronto? Pronto? Dica. Sì. Sì, pronto. Sì, no, io volevo, dato che non si parla del mercato della Juve, che sono tifoso della Juve, volevo parlare di Cassano e Balotelli. Vederli insieme sarebbe come vedere Meneghin e Fossecco ai tempi, ovviamente. Sì, potrebbe essere qualcosa di simile. Paragonare Balotelli a Meneghin, però, se ci sente Dino. No, Andrea. Lui fa riferimento alla coppia Andrea Meneghin, Gianmarco Pozzecco, che portò lo scudetto a Varese. Ci vorrebbe Recalcati in panchina, un altro contesto, eccetera eccetera. Come scrive oggi Sconcerti, potrebbe essere un crack, no? Questa coppia Cassano Balotelli, ma forse il sogno è oltre la realtà e il rischio è troppo grande. Allora, Fabio dalla provincia di Venezia, grazie, parliamo un attimo di un'altra cosa. Ed è così, per rendere il suono in immagine, ed è così che la nazionale under 18 femminile di pallavolo è diventata campione del mondo. Saluto e ringrazio Consuelo Mangiafesta, nota voce e commentatrice televisiva. Ciao! Ciao, buon pomeriggio a tutti. Adesso tutti siamo qui a scrivere che il futuro è d'oro, il futuro della pallavolo italiana è radioso. Secondo me bisogna fare ancora qualche passo. Ma guarda, il presidente della Lega Pallavolo Serie A, nonché mio capo, Fabris, l'anno scorso era stato, come dire, lungimirante, dicendo il futuro è qui, pur non sapendo, insomma, dell'esito di questo torneo, che si è concluso come meglio non si poteva per queste ragazze. È ovvio che c'è ancora molto da fare, da lavorare, però io penso che la strada intrapresa sia assolutamente quella giusta. Curare questo vivaio, credo che abbiamo i tecnici migliori del mondo, è la dimostrazione che tutti quelli bravi per questioni economiche sono andati all'estero, però quelli che sono rimasti in Italia, e in questo caso Marco Mencarelli, che ha fatto davvero un grandissimo lavoro, è stata molto brava la federazione a tenerselo stretto, perché penso che sia uno dei tecnici migliori in circolazione per il discorso dei giovani. Sì. Poi c'è la pallavolo femminile, ha comunque un grande vantaggio rispetto a molti altri sport italiani, cioè un bacino d'utenza enorme. Ma sì, guarda, non so quali sono i dati CONI, però quelli dell'anno scorso dichiaravano che è il secondo sport più praticato dopo, sì, il calcio, e ovviamente il 70% degli iscritti sono ragazze, e quindi ovviamente, insomma, si parte già da un buon punto. Poi è ovvio, c'è un grandissimo lavoro da fare di reperimento del materiale umano, ma per questo credo che la federazione, insieme a tutto lo staff, stia facendo davvero un ottimo lavoro. E in più quest'anno credo che per la prima volta nella storia sia stata data un'opportunità a queste giovani ragazze di partecipare ad un campionato di Serie A, cioè la Lega Serie A femminile ha accolto il Club Italia nel campionato di A1, quindi queste giovani ragazze, che hanno fino a ieri, insomma, giocato con le loro pari età, si confronteranno con le migliori giocatrici, certo, in circolazione. Credo che questo sia davvero determinante. Dominante, esatto, per la crescita. Sì. Questa è la chiave di tutto. Consuelo, ti ringrazio. Grazie mille, un abbraccio. Grazie Consuelo Mangiafesta. Capito, Giovanni? Questa è la chiave di volta di tutto. Se tu fai giocare i ragazzini con gli adulti, crei le squadre B, crei le squadre satellite, eccetera, eccetera. Loro crescono e magari vincono. Oggi c'è sul giornale un'intervista di Damiano Tommasi che rilancia: facciamo le squadre B perché sì, la primavera non è sufficiente, devono i giovani andare a giocare correttissimo in quei campionati. Non lo faranno. Non lo faranno. Ciao. Mai, mai. Ciao Giovanni, ci vediamo nei prossimi giorni. Ci vediamo nei prossimi giorni. Al più tardi domenica, vi ricordo, torna tutti convocati, weekend 17-19, saremo qui ad aspettarvi. Grazie anche a Claudia Schiattone, la nostra autrice. Mi era sparito il microfono. E a Giovanni Melchiori in redazione. Ciao a tutti, ci sentiamo domani, tutti convocati alle 2. Grazie di tutti, di tutto, e una buona estate a tutti.